טיים. בלו טיים לייב. בלו טיים. לייב. Eccoci qua, 21.02, buonasera da Agostino Spolaore, buonasera soprattutto da Blu Radio Veneto, la vostra emittente preferita in questo preciso istante. Anche oggi, giovedì 15 novembre 2012, un appuntamento con la musica dal vivo, con la musica brasiliana, ma fatta assolutamente qui in Italia, da un gruppo padovano, ma comunque ne parliamo tra qualche istante. Prima di tutto devo salutare il mio fedele compagno, il nonnetto di Blu Radio Veneto, cioè Maurizio. Ciao Maurizio! Buonasera Agostino, buonasera ai nostri ascoltatori. Come stai? Benissimo, io sto sempre bene quando dentro sono nella fossa di leone. Anche perché oggi hai fatto un giorno di riposo, quindi sì, ho fatto un giorno di riposo, ma musicalmente non riposiamo mai, siamo sempre in lavoro in corso, perché bisogna far così, live, è questo, ecco. È l'essenza. Sei riposatissimo, insomma, esatto. ti sento carico, bene, hai già fatto amicizia, sì, lì in sala? Esattamente, immediatamente. Ci mancherebbe. Chiaro. Allora, prima di parlare brasiliano, i nostri dati tecnici, cioè il numero telefonico con il studio, lo 049-875-6423, mentre per quanto riguarda gli sms, che come al solito, se volete mandarne qualcuno per salutare gli artisti che abbiamo questa sera in studio, potete tranquillamente farlo, o anche fare qualche domanda al 346 23 20 033. Se invece volete risparmiare anche i soldi, i centesimi del sms, potete tranquillamente scriverci sulla nostra pagina, cioè di Facebook, cioè semplicemente Blu Radio Veneto, oppure Blu Radio Veneto Rock Wave, oppure anche, perché no, sulla mia pagina, cioè Agostino Spolaore. Io ho Facebook aperto sempre, quindi posso tranquillamente rispondervi. E poi ancora le nostre frequenze 88 e 700, e mentre per quanto riguarda la parte, diciamo, veneziana, la zona di Venezia, vi ricordo il 94 e 600 MHz in modulazione di frequenza. Il nostro sito dove potete ascoltarci in streaming 24 ore su 24, e cioè www.bluradioveneto.it. in alto sulla sinistra, più o meno, trovate scritto ascolta la radio, cliccando lì si ascolta Blu Radio Veneto 24 ore su 24 in diretta, assolutamente. E poi ancora troverete le notizie inerenti alla nostra musica, ai nostri live, ma anche le notizie di cronaca per quanto riguarda il Veneto soprattutto, ma anche al di fuori. E poi le recensioni, appunto, degli artisti che si susseguono qui nei nostri studi, che vengono a presentare il loro disco. Questa sera, come dicevo prima, abbiamo i Bossamba, al quale diamo un benvenuto a tutti quanti. Ciao ragazzi! Ciao! Ciao, buonasera a tutti! Ciao. Sono in cinque, sono in tanti, li presentiamo, anzi ne presento una, la donna, poi lei ci presenta tutti quanti. Anna Contin, ciao e grazie di aver accettato l'invito. Grazie a voi dell'invito, ciao, buonasera a tutti quanti. Allora io presento in ordine sparso. Sì, certo. Flavio Costa alla Buongiorno. Fisarmonica, Paolo Valentini alla chitarra e cavachino. Ciao. Daniele Vianello al basso. Buonasera. E contrabbasso. Ovviamente questa sera non hanno tutti questi strumenti. E non ultimo, Luca Palmarina alla batteria. Ciao a tutti. Maurizio, tutto tuo. Sì, dieci anni fa, o quasi un po' più di 10 anni fa, è partita l'idea tra Paolo ed Anna di fare musica brasiliana. È difficile in Italia proporre musica brasiliana. È un mondo un po' particolare, che chiaramente in questi ultimi anni si è allargato, ma 10 anni fa non era così tanto largo, vero Anna? Com'è stata l'idea allora? Com'è data l'input per portare avanti la musica brasiliana, al di là dell'amore per il Brasile e la cultura brasiliana? Beh, nel senso che ci piaceva, quindi siamo andati proprio a cercare pian pianino. Cercare, una cosa giusta, avete cercato di esaminare, di studiare. Sì, la musica brasiliana. All'epoca ci tiravamo proprio giù i brani, e avevamo qualche disco anche dei genitori magari che già si ascoltavano musica brasiliana, perché negli anni 60 comunque c'è stata una prima ondata. C'è stata una prima ondata, grazie a Lauli e a Endrigo soprattutto, e Calabrese, Dalla. Sì, ma Dalla, Bardotti. Sì, però Calabrese e Bardotti hanno molto spesso tradotto i pezzi in portoghese. Dalla ospitava i musicisti. Ecco, vedi, a casa sua. Giusto, lui suonava il clarinetto, quindi poteva essere molto vicino a questo genere musicale. E anche Gino Paoli, Ornella Vanoni. Però più che altro è stato Bardotti. Bardotti è cominciato a sdoganare il discorso. Lauzi e Endrigo con le famose canzoni per i bambini, bellissime. Certo. Un disco meraviglioso che rimarrà nella storia della musica sua, e non soltanto sua. Quindi da quel momento là hai cominciato a avere l'idea, sì, ad ampliare il disco tra Paolo e te. Poi in realtà ci sono anche alcuni brani brasiliani che sono diventati standard di jazz, tipo Corcovado, Chega de Saudade, per cui già da quelli siamo partiti e forse da quelli è anche nato l'amore, perché suonavamo assieme, studiavamo jazz. Perché il disco che adesso sentiremo non è soltanto musica brasiliana, ci sono degli inserimenti, delle sinuose vie, giustamente, legate anche al jazz, questo sì, perché ci deve essere un sottofondo, un qualcosa da cui partire. Sì, anche perché anche Daniele, ad esempio, viene abbastanza dal jazz, anche se suona di tutto e di più. E però la cosa che abbiamo sempre cercato è di contaminare, cioè nel senso che noi non siamo brasiliani, per cui non ha senso che ci mettiamo a suonare musica brasiliana, cioè cercare di arrivare a farla esattamente come i brasiliani. Certo, impossibile. E quindi diamo una nostra rilettura, cioè, sperando in questo modo di appassionare sempre più persone, perché crediamo sia una musica molto bella, molto varia e ricca, insomma. Hai detto una cosa giusta, perché una volta negli anni 60 si usava a fare le cover, cioè si prendevano i pezzi, si traducevano in italiano, qui era Mogol che traduceva tutto alla grande, non si sperimentava, si traduceva e basta. Voi non fate cover, li prendete i pezzi, li esaminate, li vedete a modo vostro, li costruite e anche praticamente create dei pezzi vostri originali, quello è importante. Fondamentale, secondo me. Sì, sì, anche se è stato un percorso. È stato. Vieni un po' vicino. Sì, è stato un percorso, insomma, che ci ha voluto anche del tempo. Certo. Abbiamo fatto anche noi il nostro passaggio attraverso le cover, un po' anche per sì, monetizzare, interiorizzare, sì, certo, quello che era la cultura, certo, e la musica brasiliana. Certo, certo. Ed è qui che invece poi è nata l'esigenza anche di contaminare, come diceva prima Anna, e riversare poi dentro la produzione nostra quelle che poi sono le nostre esperienze personali. Noi suoniamo insieme, però abbiamo ognuno anche poi altre situazioni, ed è questa è stata la cosa bella e interessante, che da un inizio in cui ci siamo affacciati alla musica brasiliana attraverso le cover, siamo cresciuti piano piano tutti insieme e siamo arrivati poi a fare questo CD, dove questo mix di esperienze personali, di cultura italiana, che però ha assimilato in tutti questi 10 anni tutto quello che è la musica brasiliana. Esatto, ma la chiave di volta, secondo me, del CD è che non avete azzerato le vostre competenze personali, quello è l'importante. Le avete lasciate avanti, le avete lasciate aperte, contaminando tra il pezzo classico brasiliano e la vostra intuizione di Brasile. Questo ho capito io, non so se sei. Beh, chiaramente siamo mediterranei. È chiaro, siamo mediterranei. Si parte da questo, cioè io e Anna, anche loro ovviamente, certo, poi, certo, insomma, siamo tutti appassionati di musica brasiliana, però poi alla fine abbiamo questa matrice che tutto quello che ascoltiamo poi lo risuoniamo, abbiamo capito che non siamo brasiliani, non siamo in grado di suonare non potete come i brasiliani, chiaramente, e no, quindi suoniamo così, che chiaramente diventa per noi e per chi ci ascolta un valore aggiunto, quindi certo, c'è, certo, una sorta di rimescolamento delle carte. Chiaro, insomma, chiaro, giustissimo. Però il disco è molto bello, su questo ve lo posso già garantire. Grazie, grazie. È uscito un lavoro. È uscito un lavoro molto bello, insomma. E questo titolo, Anna, Cariocas da Casca, giusto? Ho detto sì, bene? Io benissimo. Cosa significa? Cioè, questo uovo, questa copertina, cosa significa? Sì, che in copertina c'è un uovo, appunto, perché allora, Carioca è l'abitante di Rio de Janeiro. Uh-huh. E si usa dire a Rio de Janeiro, per identificare proprio il nativo doc, Carioca da Gema, che vuol dire Carioca del tuorlo. Allora, noi abbiamo giocato un po' con questa espressione e abbiamo detto, beh, Carioca da Gema non possiamo essere sicuramente, almeno da Casca, cioè del guscio. Casca. Sì. Devo imparare. Casca. Ci siamo permessi di definirci così, insomma. E poi avete messo all'interno questo contenitore di tante uova, con tutti i nominativi, che sono tutti i personaggi che hanno suonato all'interno del disco, giusto? Sì, esatto. L'uovo rimane anche un po' un tema, diciamo, che lega anche diverse canzoni, come, certo, e quindi sia per il titolo che poi per come concetto di per sé. Poi ci piaceva molto l'immagine e quindi... Certo, io direi di rompere subito il ghiaccio, se siete d'accordo. Facciamo ascoltare qualcosa dal disco o volete suonare già subito qualcosa dal vivo? Partiamo con uno dal disco. Partiamo con il disco? Sì, sì. Decidete voi. Se ci scaldiamo. Sì, che cosa dal disco? Noi suoniamo in playback. Ecco. Facciamo una prova finché sì. Assolutamente. Allora diciamo che è dal disco, no, che è dal vivo. Sì, no, poi no. Comunque io sentendovi prima non c'è molta differenza, insomma, infatti dal disco. Tra l'altro sono pieni di strumenti questa sera, oltretutto. Infatti scusa, ma tu dici sempre che suoniamo dal vivo, non sì, preoccuparti. Sì, certo. Va bene, va bene. Adesso dal vivo facciamo cosa? Allora, dal vivo Camino das Águas. Okay. Che vuol dire il corso del fiume? Sì. Che bravo, che sono molto qui. Sai. Il cammino delle acque sarebbe per essere... Dopo io l'ho tradotto come il corso del fiume, ma solo per dire quello che Rodrigo Maragnano voleva. Dopo parliamo di questo, okay. Parliamo di questo autore che è molto importante. L'ascoltiamo. Ok. Oh, Blue Time Live. La musica dei Bossamba qui a Blu Radio Veneto con la canzone che apre il disco, ma questa sera ce la siamo sentiti dal vivo qui in studio, cioè il Corso del Fiume. Ho detto bene? Sì, bravo. Maurizio, tutto tuo. Sì, adesso devo parlare con Anna e anche con gli altri, certo, dell'autore del pezzo, che è un autore abbastanza famoso per certi ambienti italiani, perché noi abbiamo sempre amato, il Brasile l'abbiamo conosciuto con le telenovelas, con Sonia Braga ed altre cose. Però questo autore chi è, Anna? Beh, lui si chiama Rodrigo Maranhão ed è un cantautore che a me piace molto, però devo dire che in realtà non è ancora molto famoso. Quello che l'ha reso famoso è proprio questo brano, che è stato e che è diventato tema di telenovela, con l'interpretazione di Maria Rita Mariano, che è la figlia di Elis Regina. Quindi è la famosa cantante. Esatto, che anche lei è invece una cantante di grande successo. Certo. E da lì quindi anche lui ha iniziato ad essere molto più conosciuto. Ha avuto una spinta, possiamo dire, su questo. Come dicevo, penso, se non mi ricordo male, che questo, in realtà la possiamo chiamare più miniserie che telenovela. Sì, perché in Italia viene chiamata telenovela, invece non è proprio così. C'è una distinzione, cioè la telenovela è più la storia d'amore, appunto, le grandi famiglie. Certo. Mentre la miniserie è legata a un qualcosa di storico, per cui anche Terra Nostra ovviamente ha la parte dell'amore, di fondo c'è una ricostruzione storica dei viaggi degli immigrati, dell'arrivo a San Paolo, che è molto fedele, e anche guardandolo si impara molto anche di quello che è stato. Dal punto di vista musicale, noi della redazione di Blu Radio Veneto abbiamo scritto coralità, è un pezzo molto corale. Adesso Paolo, che mentre il pezzo andava parlavamo io e lui, della coralità del pezzo, l'idea della coralità, il voler inserire questo pezzo per questo motivo. Anche. Dai, diciamolo in coro, dai. Io direi che potrebbe dirlo Daniele. Ecco, invece. Voi Daniele. Potrebbe spiegare Daniele questa cosa della coralità. Dunque, dimmi Daniele, Daniele è un bel basso, proprio qua davanti, il basso da un certo senso, basso è rock, anche stasera può darsi che sia rock anche il basso. Dimmi. È un pezzo che richiedeva una certa coralità. Ma tu ci sei nel coro, tra l'altro, no? Non mi sembra? No, è vero, perché quella mattina abbiamo registrato, dovevi andare via. È vero. Dovevo andare via. No, non c'è nella Daniele. No, sì, c'è, dai, sì. E quindi, insomma, ognuno... ognuno di noi ha dato un apporto che definirei decisivo alla riuscita del brano, soprattutto Luca, e qui credo che Luca abbia qualcosa da dire, il nostro batterista. Beh, è stata l'esperienza forse che a cui ambivo da sempre, quella di poter cantare in un CD, devo dire che è stata una liberazione quasi. Ma i cori per voi. Dopo lo so gli altri come la vivono, insomma, però non credo di aver fatto la mia parte. No, ci sono anche delle parti che non sono andate nel disco, di cui siamo molto dispiaciuti, ci sono le famose ghost track, quello è stato proprio un peccato, proprio, vabbè. Ma c'è alla fine? C'è un pezzo, l'abbiamo lasciato, sì. Flavio, dai. E possiamo dire alla Rocchettara che è una jam session questa, praticamente possiamo dire questo. Certo, assolutamente. Possiamo dirla così, insomma. Assolutamente. Dillo. Certamente. Questo pezzo è una jam session. È perfetto, una jam session. L'ha detto. Lo abbiamo detto. Mi sembra di capire che siete molto, molto goliardici tra di voi, insomma, sì, anche in studio. No, cioè, vive... non scherziamo. No. C'è qualche dittatore nel vostro gruppo? Sì, però lo diciamo. Sì, tutti e diciamo cinque. Che è l'unica dello sesso. Ah, sì? Dittatore, beh, senti proprio... No, a parte gli scherzi, ognuno è dittatore di se stesso. Beh, certo, no, sì. Invece la meraviglia, adesso a parte gli scherzi, è parte, esatto. Sono tantissimi anni e la testimonianza che siamo ancora qui, credo che sia proprio questo il segreto. Un po' come i Pooh, purtroppo, perché non c'è un dittatore, allora siamo ancora. No, diciamo che questo è un gruppo in crescita, in continua crescita, in controtendenza rispetto al resto del mondo, perché è partito da due, e poi è diventato quattro, Daniele, io con Daniele, è vero, prima quattro, e poi è diventato cinque. Sì. Cioè, quindi arriveremo a 20. Nel disco siamo arrivati a in una canzone essere in 7, 8 in una canzone sola. Sì, possiamo, tra gli ospiti, sì. Possiamo chiamarvi quintetto, allora, è giusto così? Sì, adesso sì. Sì, adesso sì. Ma com'è la situazione mentre fate un disco, delle prove, così in qualche sala prova tra di voi, insomma? Vige un affetto o vi scontrate spesso e volentieri, insomma, per quanto riguarda la musica, ovviamente, insomma? No, scontri penso che non ce ne siano quasi mai stati. No, scontri assolutamente no, a parte solo quando ho cancellato delle tracce di che non ti vuole, ma vabbè, ma è normale, quello capita, fai 3000 registrazioni e ne scappa una, vabbè, una. Ah sì, è vero. È vero. È bello, sai? È successo, sì. C'è un po' Fabio, ti deve un po' di tensione, di paura. Un pomeriggio ha voluto fare pulizia con il fonico e ha cancellato delle tracce fondamentali. Voi le avete rifatte poi? Vabbè. Appunto, no? Daniele le ha rifatte, erano le tracce di basso. Era proprio quella. Sì. Non so se noti la faccia, Maurizio, di Daniele. Sì, ma no, è una faccia giusta, una faccia giusta da bassista. No, scusate, in realtà Daniele ha detto che lui si ricordava che c'era una traccia dove aveva fatto una certa cosa che lui voleva che andasse nel disco. Casualmente, proprio era proprio la traccia che avevo cancellato io. Ecco. Era per farti sentire un po' in colpa, se no, scusa. Ma c'è qualcuno tra di voi che decide la canzone da fare, insomma, o arriva uno e dice possiamo fare questa? Beh, principalmente Anna, insomma, è quella che sceglie i brani, perché insomma sono sempre un po' fatti su di lei, cioè nel senso che lei sente un brano che può cantare, quindi lo sceglie, però moltissimi anche li abbiamo scelti noi. Ad esempio Cammino da Zagos, esatto, l'ha proposto Luca, esattamente, poi... Però è innegabile che Anna sia un po' il nostro faro, insomma, su questo non ci sono dubbi, voglio dire, un po' anche per gli studi che ha fatto, insomma, per la sua vicinanza alla cultura brasiliana, insomma, almeno io parlo poi per me che ci sono arrivato dopo, dentro questo percorso mi è stata di un'utilità enorme, insomma, consigliarmi cosa ascoltare, cosa non ascoltare, insomma, per cui, come dire, c'è anche una sorta di fiducia nelle sue proposte, insomma. Che... Quindi il Corso del Fiume è nato, quindi Anna, da una ricerca che tu hai fatto, hai deciso di... Perché vuoi dare un po' di brio al discorso musicale? In realtà questo pezzo l'ha proposto lui. L'ha proposto Luca. Vuoi dare un po' di brio, di movimento forse al pezzo? Ma di sé a volte sono anche solo sensazioni, emozioni, ascolti un brano, ti lascia dentro. E lo ritenevo poi anche per una sorta di filo conduttore, di cui magari riusciamo a parlare meglio dopo, che legano un po' tutti i brani, e mi sembrava che questo brano in particolare riuscisse a essere dentro a questo filo conduttore, che riuscisse anche in qualche modo a evidenziare delle parti di questo filo conduttore, l'acqua che scorre, insomma, che è qualcosa che tu vedi ma che nello stesso tempo ti trasporta, che ti lega a qualcos'altro, insomma, ti porta, e insomma, benissimo, un po' come sono anche tanti testi del CD. Sì. Beh, si parlava di testi, si parlava di CD, adesso ci ascoltiamo qualcosa dal vivo, ce lo fate sentire? Oh, vivo! Dal vivo! Cosa ci proponete? Vorremmo proporre un brano molto bello di João Bosco, che si intitola Jade, e parla proprio della giada. Non si capisce bene, anche io poi avevo letto anche un'intervista di João Bosco in cui spiegava questo brano e dice che sono più delle immagini, delle pennellate che vuole dare, quindi non si riesce esattamente a tradurlo. E ha preso la giada come simbolo proprio della bellezza femminile, anche del mistero che il femminile racchiude in sé. Ok. De olhar perdição derramante abril, se cês ai, meu irmão, aqua locatara que tem mar, mergulha no ar, me arrasta, me atrai pro fundo do oceano que tá pra lá de babá, pra cá de ali. Pedra que lasca seu brilho e que queima no lábio um quilante de mel e que deixa na boca melante um gosto de língua no céu. Luz talismã, misterioso Kubanacá, delícia sensual de maçã, saborosa manhã. Vou te eleger, vou me despejar de prazer. Essa noite o que mais quero ser, pra você. Certo che voi create un'atmosfera incredibile quando fate queste canzoni. Anna, hai una voce che veramente prende molto. Entra, sai quelle classiche voci che non ti scorderai mai, perché ti entra dentro. È possibile? Grazie, gentilissimo. Wow. Oggi sono anche un po' raffreddata, quindi mi scuso. No, ma sul serio, sai, quando si vanno a vedere certi concerti, ti sei che magari hai la possibilità di stare ad ascoltarli in maniera molto tranquilla, quindi seduto, eccetera, eccetera. Sentire questa voce calda così e queste sonorità molto belle ti fa solo che enormemente piacere, insomma, sentire ed essere lì in quel momento, insomma. Grazie. Prego. Ho due chiavi di lettura di questo pezzo, vediamo se siete d'accordo. La prima chiave di lettura è la chiave minimale, all'inizio, qualche tocco. Era lontano dalla cultura brasiliana questo tocco minimale. A me ricordava un po' il Japan di certe cose, particolarissimo, proprio appena accennato. Poi chiaramente lo sviluppo è totalmente brasiliano. Poi c'è una cosa interessante che ho notato. La voce sua, la voce di Anna, cattura tutti gli strumenti in due momenti. Li cattura proprio lì. Come, cerca di, come una calamita li cattura, soprattutto il basso proprio dà un contraltare perfetto, e quello secondo me è la chiave di lettura totale del pezzo, io l'ho sentita così, non so se siete d'accordo. Beh, è una visione, sì, del brano. Io l'ho sentita dal vivo è un'altra cosa, il disco è quasi vicino, però dal vivo è un'altra cosa, è un'altra, certo, dimensione. E la voce che cattura gli altri, soprattutto il basso fa un duetto con lei in alcuni momenti, poi gli altri lo seguono, e l'inizio con la batteria appena appena accennata, questi tocchi alla Japan, la musica minimale, poi si sviluppa, il pezzo si sviluppa totalmente, nel classico carioca, si sviluppa, esatto. L'elemento jazzistico entra sempre, l'inizio è un totale elemento jazzistico, appena accennato, ma è quello. Per quello mi rifaccio ai Japan di David Sylvia, perché all'inizio certi pezzi dei Japan erano proprio minimali e partiva da un elemento jazzistico. Mi viene in mente questo, non so se siete d'accordo, io chiaramente siamo democraticamente, ognuno può esprimere il proprio parere, e così l'ho sentito. No, a noi fa anche piacere sentire altri io l'ho interpretata così. Sentire io cosa... Cosa arriva adesso, grazie a voi e alla musica brasiliana. Io sono i classici, ho sentito, e non benissimo, però essendo un rocchettaro, però ho sempre buttato su quel punto di vista là. Però secondo me ci sono questi addentellati, la musica è a 360 gradi, non può essere riduttiva assolutamente. Beh, comunque l'autore di questo brano è moderno come scrittura. Questo brano è abbastanza moderno, anzi molto, anche armonicamente. Perché avete scelto un musicista moderno, nel senso buono del termine? Beh, diciamo che della musica brasiliana ci piace molto, ed è molto vasto il mondo della musica brasiliana. Personalmente a me questo autore, João Bosco, piace moltissimo, perché è un bravissimo chitarrista. Ora non mi ricordo perché abbiamo scelto... Sì, è un compositore bravissimo, proprio... Perché piaceva colto a tutti questo, sì, brano era, sì. Quindi l'avevamo... una cosa che dobbiamo sapere noi gli ascoltatori, l'idea, come il concetto di scegliere un pezzo, abbiamo scelto questo pezzo di João Bosco, sì, giusto? L'idea, diciamo, è partita da te. Gli altri hanno sentito il pezzo, hanno d'accordo nell'arrangiamento, nella costruzione del pezzo stesso. Dal pezzo di João Bosco avete costruito un vostro arrangiamento. Ma adesso non l'ho scelto io, se non ricordo male, penso l'abbia proposto anche questo Anna, sì. Anna, sì. Però ecco, quello che nasce poi, non è che lo decidiamo, cioè nel senso lo suoniamo e molto spesso ne proviamo più di una versione e quindi poi scegliamo quella che ci viene più naturale, quella che ci piace di più, cioè è sempre in costruzione. Tant'è vero che nel disco è diverso, tra l'altro, perché l'inizio è fatto con... basso e contrabbasso. Qui invece era fatto con Luca ha dato degli accenni. Sì. Appena un momento. L'abbiamo improvvisato stasera. Appunto, è bello così, live per quello. Leggermente cambiato. Non sapevamo come iniziarlo. Bisogna leggermente cambiare. Ci hanno preso Dimmi. Per quello che poi penso io è che questo è un brano che noi suoniamo da tantissimo tempo. Sì, credo che sia uno dei più. Sì, dei più. Tra quelli del disco. Forse quello che abbiamo suonato di più in assoluto. Il fatto stesso che abbiamo voluto, come dire, cambiare, inserirlo nel CD, credo sia come un po'. E secondo me è stato, scusa se ti interrompo, il primo che abbiamo scelto per il CD. Abbiamo detto, io mi ricordo, cosa mettiamo? Jadet sicuramente. Però probabilmente era perché era una condivisione. Ma poi l'avete cambiato, quello è importante. Ovviamente rispetto a quello è importante. Qui c'è il lavoro dei Bossamba. Appunto, è importante quello, l'aver cambiato adesso, allontanati il discorso di cover che facevamo prima. Cioè non deve essere, una volta si faceva uguale. Sì, questo è vero. È uguale, no. No, l'importanza è di fare un pezzo, non è farlo uguale, è reinterpretarlo, inventarlo. Facciamo un esempio lampante per i Rocchettari: All Along the Watchtower, fatto da Jimi Hendrix. È di Dylan, ma è fatto da Jimi Hendrix, sembra tutta un'altra cosa, ma è di Dylan, e quindi è la stessa cosa. Però il passaggio attraverso le cover risulta essere anche da un punto di vista di studio, di crescita, quasi necessario, secondo me. Quando poi tu la cover l'hai talmente interiorizzata, ecco, che allora riesci a staccare. E diventa vostra, esatto, non è più. E cominci a lavorare sulla tua interpretazione. Io voglio arrivare a questo punto, perché io ho capito questo punto che avete evidenziato nel disco. Deve essere quella la chiave di volta di tutto il lavoro che avete fatto, parlando di pezzi non originali. I pezzi originali sono vostri al 100%. Chi è che scrive principalmente i testi? Tu, Anna, vero? Leggevo nel disco. Ma come nascono le tue canzoni? Al di là di quelle che sono, diciamo, di altri artisti, insomma. Quelle tue, insomma. Dalla musica. Cioè, tu prima fai la musica e sopra ci scrivi? La maggior parte... Allora, io del disco ce n'è uno solo che ho scritto io, totalmente, che è Valeu. E anche lì invece è nato prima il testo. Mentre Daniele e Paolo per altri brani tipo Phoenix, Goffado e Marola, avevano creato la parte armonica e la melodia che a me ha ispirato quel testo. Cioè, sentendolo mi ha richiamato quel tema e poi di conseguenza anche proprio tutte le parole. Quindi nascono in base alla musica, insomma. Dipende appunto dalla situazione. Non nascono da eventi, da cose che ti accadono? Beh, poi io penso che ci sia sempre una parte di noi, certo, autobiografica, però è proprio la canzone che, nel caso in cui io abbia già la musica, mi porta proprio e anche una, nel caso di traduzioni, è più il suono che mi guida nella traduzione, come suonano le parole, e quindi oltre al significato cerco anche di rimanere fedele alla sonorità. Certo. Ma tu saresti una prolifica in fatto di testi o sei pigra? No, beh, non ti piace scrivere, insomma. Per ora lo faccio un po' quando mi viene richiesto, ecco, certo, diciamo. Ho capito. Poi. Va bene, Maurizio, io direi di far, visto che hanno rotto il ghiaccio, direi di farli già. Sì, esattamente, io ho fatto apposta per delle reazioni, sì, sono state positive, sì, quindi facciamo suonare un'altra volta. Dai. Certo, ci mancherebbe altro, insomma. Cosa pensate di farci ascoltare adesso? Allora, visto che abbiamo fatto qualcosa di brasiliano, in realtà una delle nostre operazioni è anche quella di cercare di far diventare famose anche delle canzoni italiane in Brasile. E quindi abbiamo scelto una delle più belle canzoni italiane, secondo me, simpatiche e anche divertenti, che è Onda su Onda di Paolo Conte, che io ho tradotto invece in questo caso in portoghese. E modificando, sono stata molto fedele, diciamo, al testo, e però ho modificato il fatto che è al femminile, cioè è lei che cade dalla nave, esatto, e Pedro invece che chi era? Sara invece di Sara. Ok. Noite escura sem fim, pobre de mim, pobre de mim. De lá da água do mar, ninguém jamais vai me salvar. Caí fora do cruzeiro, caí fora. E no barco havia um bolero, onda, mais onda. O mar vai me carregar à toa na vida, nas mãos de uma sorte malvada e atrevida. Onda, mais ondas estão me afastando mais. Um navio longe pisca seu último adeus. Só Deus vai me buscar. Tirou proveito. Já está sambando, nem viu que fui. Colado ao corpo dela, esquiva a luz. Pedro, de qualquer jeito, estou na ilha do amor, suave o clima ao meu redor. De manga, coco e bambu, está tocando maracatu. Beijo ao sol na paz da praia, o meu sorriso. Abro mão, é o paraíso. Onda, mais ondas, é o mar que me trouxe aqui. Ritmos, baladas, homens e sonhos, já estou apaixonada. Onda, mais ondas, estou acostumando a ouvir. O navio così, vai se a revendere. Pedro, tiro proveito. Já está sambando em nível que fui. Colado ao corpo dela, esquiva a luz. Pedro, de qualquer jeito, onda mais ondas, la la la la la la la la la. Onda, mais ondas, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Onda, mais ondas, la la la la la la la la la la la la. La la la la la la la la la la la. Onda, mais ondas, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Beh, direi che come Paolo Conte al femminile non c'è male. Che ne pensi, Maurizio? Ah, indubbiamente a me sono piaciute molto le diversità di corsa. Avete rallentato, avete aumentato, avete rallentato, avete aumentato, avete volutamente rallentato in modo plausibile le fermate, proprio le avete allungate volutamente e poi le avete ripreso. Bello, molto divertente. Giustamente bisogna cambiare. Paolo Conte l'ha scritta in una certa maniera e voi l'avete scritta, riscritta, musicata in un'altra maniera, certo, perché sì. Bisogna creare anche su un pezzo famoso, al di là che è stato fatto al femminile adesso. Bisogna creare e voi avete creato musicalmente. A me è piaciuto molto la fisarmonica, che entrava magnificamente sui pezzi, dava proprio, entrava e usciva, perché doveva essere così, secondo me. Io l'ho sentita così. Un'ottima versione. Grazie. Può essere un singolo anche, perché no? Beh, una volta, al di là dei diritti d'autore da pagare a Paolo Conte. Ma esistono ancora i singoli? Esattamente. Beh, tramite iTunes puoi scaricare il singolo. Tramite chi? iTunes. Ah. Magari diventa famoso in Brasile. Perché no? Sì, perché no? Beh, adesso ci stanno ascoltando in Brasile, comunque tramite iTunes. Certamente. C'è un musicista che ci ascolta spesso, si chiama Celso Valli. Magari ci sta ascoltando, lo salutiamo. Ciao, ciao Celso! Poi, tutto buono? Come mai avete scelto questo pezzo di Paolo Conte e non un'altra cover di un altro musicista vicino al Brasile? Italiano, parlo di italiani. Un po' sempre per la tematica, il mare, poi appunto ci sono altri brani anche legati cioè in maniera scherzosa, sì, ironica, anche agli ironico. Amori. Anche tu hai cantato in maniera ironica, da chanteuse nel senso positivo del termine, voglio intendere. Sì, sì, non cerca di dargli un po' di... E quindi io l'ho proposto, questo l'ho proposto io perché mi piaceva molto. E loro hanno accettato assolutamente. E l'arrangiamento avete già deciso come farlo così? Cioè... No, questo abbiamo provato un po' e dalle idee di tutti è nato questo arrangiamento. Bene. Sì, in realtà poi un ulteriore arrangiamento è stato fatto in sede di lavorazione. Di lavorazione. Perché dal vivo, perché dal vivo lo fate così? No, rispetto alla registrazione c'è un grosso intervento di cori fatto da Stefano Gaglione, che anzi ringraziamo e salutiamo perché è stato veramente fantastico, prezioso, ci ha aiutato tanto e è anche molto presente nel disco perché fa i cori, il clarinetto, certo. E insomma, gran musicista. E... mi ha dato una mano notevole. Sì, ma sì, la, sì. Il disco l'avete poi prodotto, una persona splendida. L'avete, l'avete prodotto voi, il disco? Sì. Totalmente, avete fatto tutto voi. Ci sono stati degli ospiti, vi hanno dato una mano, però l'idea di produzione è vostra. Insomma. Sì, sì. Sì. Infatti, infatti gli ospiti sono tantissimi. Leggevo qui c'è anche Maurizio Camardi. Sì, sì, esatto. Poi c'è Giorgio Gobbo, c'è Stefano appunto Caglione, c'è Ivan Tibolla, sì. Ettore Martin, Rachele Colombo, Filippo Dalla Valle e Massimo Tuzza. Sì. Penso di averli dato tutti. Sì, sì, hai detto tutti quanti. Sì. Pare di sì. Tutti ciao a tutti, se c'è qualcuno, ciao! Scusa, amici, com'è un trenino di baci? Questo me la devo togliere. Dai, cioè, togliela, togliela. Dilla, dilla. Volevo dedicare il prossimo brano. Parla vicino al microfono, per cortesia. Sì, che volevo dedicare questo il prossimo brano che faremo, che verrà... quando vuoi, potete farlo anche adesso. Sì. Con un trenino di baci a mia moglie Micaela e ai miei figlioli, che sono Pietro e Micaela, che spero siano in ascolto in questo momento e che si imbarazzino o che si vergognino o che siano invece piacevolmente sorpresi. Mandate un SMS confermando che state ascoltando, per favore mandatelo subito. Ne approfitto allora, così lo ricordo, il numero è il 346 23 20 0 33, l'ho detto anche piano insomma, quindi... lo ripeto, 346 23 20 0 33. Già che ci siamo, ne approfitto per salutare invece delle, delle amiche che stanno ascoltando appunto la trasmissione. Una di Bologna, o perlomeno dalle, dalla zona dall'Emilia, Maria Tolesa Nonetti, ti ricordi Maurizio? Certo, certo, mi ricordo. Bravissima. Bravissima, è venuta qui a trovarci, ha fatto una bellissima intervista, una bellissima musica, poi tra l'altro si avvicina un po' anche alla vostra sonorità, e poi la Fulvia Pin che ci sta ascoltando. E poi ancora, chi è che devo salutare? No, niente, ancora Maria Teresa ci dice, si è messo mi piace. Ecco, insomma, e poi c'è, ah sì, questa qui che vi ha condiviso lo streaming, che si chiama, dove ho perso il segno, eccola qui, no, Alessandro, e l'ho persa, l'ho persa, oh, l'ho no, persa. No, persa, no, no! Che ha condiviso, vabbè, cioè, poi vi faccio ritornerà, sapere. Ritornerà, sì, sì, sì, l'ho persa qui su Facebook. Allora, volete, vuoi appunto far suonare qualcosa, Luca, che volevi dedicare a tua moglie? Una canzone delle nostre? Sì, una canzone delle nostre. Phoenix. La facciamo dal vivo. Quindi la facciamo sempre dal vivo. Allora, sì. Mandiamo Phoenix dal vivo. Nel senso che dal vivo schiaccerà il bottone play. E metterà. Esatto. E l'ascoltiamo. As a sombra luz e prosata da glória, pão de açúcar de peno, voa da Arábia até o fim do dia, corre espalhando a luz, deslumbrante esplendor de Arara. Plumas agitadas de ouro e vermelho, sacrifício do Cristo Jesus. Canela, cássia, mirra, fogueira, onde vai se queimar? Sobe a via das estrelas, logo cai. Se voltejar, sem se virar até altar, no berço do céu, Pai, asa sombra lui si projeta pra glória, pão de açúcar. Sobre a via das estrelas logo cai num doce voltejar. Assim se virá até o altar no berço do seu pai. Do ovo à luz de novo voltará. Blue Time. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. Allora, c'ho un po' di saluti da fare. Innanzitutto l'Emilia Romagna che partecipa stasera, si chiama Paolo, è già venuto a trovarci qui, è un fan della nostra emittente. Dice: ciao Agostino, vi sto ascoltando in simpatica compagnia. Non è il mio genere, ma in sottofondo ci sta benissimo. Sta, probabilmente sta lavorando, quindi vi sta ascoltando. Insomma. Grazie. Ciao Paolo, buon proseguo l'ascolto dei programmi di Blu Radio Veneto e quindi questa trasmissione, in questa intervista. E poi devo leggere un sms che è simpaticissimo. Adesso qualcuno riderà a crepapelle. Allora, è dedicato a Paoligno Valentino. Oh. E dice: Paoligno Valentino è il meglio che c'è al cavaquinho. E viva il Bossamba, sì. Federica. È un po' di parte, diciamo che non è un fan. Federica, Federica, Federica, non la conosci? No, sì, io no. Io la conosco bene. La conosci, Paolo? Sì. Per quello l'ha dedicata a te. Ecco. E poi Anna, se tu sei d'accordo, direi di salutare un'amica che abbiamo in comune, che si sta ascoltando, ed è ovviamente la Franca. La Franca, sì. Che magari ci sta ascoltando, gli mandiamo un saluto carissimo, va bene? Ciao. Molto Franca. Molto volentieri, ciao carissima. Ciao Anna. Ma dai, ma sei proprio... Sono io. Ciao Annina, brava. Ma cara. Non te l'aspettavi, No, perché mi hai detto che non ce la facevi. Invece, mitica. Vedi, mitica. I poteri di Agostino. Veramente. Grazie. Una grande Anna, una grande cantante, una grande donna, veramente. So che tu hai avuto a che fare con lei, giusto? Sì, lei è stata la mia maestra di canto per tanti anni, per 4, 5, quanti? Non mi ricordo. Forse 4. No, comunque Anna mi ha sistemato per le feste. No, mi ha sistemato la voce, a parte gli scherzi, veramente. E poi è una persona, si sente da come canta, che ha un cuore. Ma l'ho detto anche prima all'inizio della trasmissione, che è una voce splendida. Adesso piango. No, ma è vero. Poi insomma è veramente al Brasile dentro la voce, no? Certo. Quindi io veramente sono troppo felice di aver conosciuto Anna e che insomma mi abbia aiutato così a fare questo percorso anche sulla mia voce. Devo dire che già lei è bravissima, perché adesso parliamo di me, ma anche Franca non scherza, bravissima cantante. Poi lei c'ha un sacco di progetti in piedi, vero Franca? Io? Scusa, mi aspettavo stessimo parlando di... Sì, beh, io in realtà ho il mio progettino, che sono i Frankie Back from Hollywood, che è un gruppo veneziano che fa modernariato pop, nel senso che non sapevamo come definirci, alla fine abbiamo deciso di chiamarci così, gruppo che fa modernariato pop. E poi ho partecipato a un musical a Casanova, esatto. Comunque, siamo qua per Anna. Io volevo veramente, sono contentissima di averla sentita. Ringrazio tanto ancora te, Agostino, per questa sorpresa. Figurati. Grazie. Lei non sapeva niente, Anna. Sei un amore. No, ma ho capito dal tono. Pensati che all'inizio, appena mi ha visto, fa: ti porto i saluti, abbiamo un'amica in comune, abbiamo Anna. Sì, volevo dire, dopo la sentiamo. Vabbè, dai. Comunque volevo anche fare i complimenti, sì, per questo programma, perché è veramente fatto bene e insomma si vede che c'è un'ottima competenza musicale e passione. Vabbè, insomma, cui... ci mettiamo quello, cioè, esatto, hai detto tu la parola giusta, ci mettiamo passione. E quella è la base di tutto quello che stiamo facendo qui, insomma. Quindi... E complimenti anche ad Agostino, a tutti voi, perché è un programma... Sì, sembrano violinate, ma è vero. È tutto vero. Va bene, Franca, adesso noi ti salutiamo, ti ringraziamo della disponibilità. Ciao. Grazie a voi, un abbraccio, un bacione. Ma il resto della band tu la conosci? Io conosco Paolino. Paolino, sì. Che Paolino. Perché l'ho conosciuto una volta che sono venuti a suonare al Casinò a Venezia. Ah, è vero, è vero. Mm. Abbiamo suonato anche insieme, se non sbaglio, no? Sì, sì, mi avete gentilmente ospitato. È vero. Sì. E gli altri no, non ho avuto ancora il piacere, aspetto ancora il disco, tra l'altro. Ecco. Beh, in che senso lo aspetto? Perché il disco è in vendita, eh? Come lo aspetto? No, non aspetto, non viene aspetto lui da disco. Solo, bisogna andarlo a comprare. No, aspetto il disco con gli autografi. Ah, ecco. Sì, sì, sì. Fai un salto qui questa sera stessa e poi Anna te lo consegnerà. Un contrassegno. Sì, sì, no, naturalmente lo pago, non voglio avere un trattamento privilegiato, però magari solo gli autografi della band. Va bene, va bene. Franca, sei simpaticissima. Grazie della disponibilità. Grazie, siete simpaticissimi voi. Ciao, ciao. Un bacio. Ciao. Un bacio, ciao, Franca. Ciao. Allora, Anna. Bella sorpresa. Non te l'aspettavi. No, perché avevo capito che non poteva neanche ascoltare in diretta, per cui non pensavo proprio. Non ha resistito alla mia domanda, alla tentazione di salutarti, quindi ci teneva tantissimo e io per prima, insomma. Allora, visto che siamo... che abbiamo parlato un po', insomma, siamo qui in studio per suonare, ovviamente, cosa ci fate ascoltare adesso? Ci state pensando? Il segnale di occupato del telefono, pensavamo di far suonare. Sì, ma è sparito adesso, non c'è più. No, lo stanno suonando dal vivo. C'è del preascolto, non ti preoccupare. Io lo faccio bene. Allora, un brano di Gilberto Gil. Ah, bello, questo è molto bello. Veramente un gran brano. E si chiama? Che si intitola Una casa d'Ela, che significa nella casa di lei, che serve però la Madonna. Ok. Avviene un miracolo. Radio Veneto, come non l'hai mai sentito. Que vi o fogo santo brotar do chão, como uma flor, como uma semente de ardor, com o esplendor de uma cor que não tem comparação. O fogo eu vi, a sensação pude sentir nos meus pés descalços, era suave e morno calor. E há mais um ar, havia perfume exala, tão embriagador de quase não se puder respirar. Como se não bastasse o fogo, foi tocado o sino que eu sei que um anjo foi quem tocou. Fogo, calor, perfume, som de sino, só faltava o mel, só faltava o mel, mas o mel chegou. Pintava mel da parede, escorria mel, eu passava o dedo, eu levava sem medo, sem temor. Doce sabor comprovava o gosto de amor lá na casa dela, na casa dela, mãe do Senhor. Ei, amor, miedo probaba se me fuese un temor. Dulce y sapo con ropa poca, estudió mola en la casa de la mãe del Señor. All'ultima goccia, come tradizione di Radio Veneto. E cosa posso dire di questo pezzo? Il pezzo di Gilberto G è molto bello, molto divertente, e secondo me c'è una caratteristica: avete giocato anche sul reggae in alcuni momenti, avete giocato, sì, soprattutto te Luca, sì, hai giocato sul reggae, bello, interessante e coinvolgente. Sulla partitura totale del pezzo, poi ci avete inserito il reggae, queste fermate e ripartenze, il reggae ci ha messo dentro. Come sì. mai, Luca, avete deciso di metterci il reggae dentro? Metti davanti al microfono. Sì, diciamo che le contaminazioni di cui si parlava prima e queste sono evidenti. Certo, per cui anche dai generi musicali, il reggae proviene poi da una terra antichissima. Certo, la Giamaica. Che ci ha portato dappertutto, insomma, per cui... riuscire a incastrarla, a metterla dentro anche... un pezzo di Gilberto G è una cosa interessante, molto interessante. È stato un tentativo, è riuscito. Beh, secondo me è molto riuscito. È riuscito bene. E poi perché il reggae, poi perché da, il reggae da movimento. Poi, il reggae è anche patrimonio della musica brasiliana, ecco, sono per d'accordo. Cui non è solo farina del nostro sacco, nel d'accordo. Senso, per cui, come dire, è stata una nostra evoluzione sulla quale poi noi appunto abbiamo giocato su questo brano, come facciamo con altri anche. Certo. Però il reggae è una specie di collan di tutti i pezzi, di tutti gli strumenti. Tu parti con la batteria dà un certo senso, un certo ritmo. A me è piaciuto molto la fisarmonica, bel basso non si parla, io sono un rocchettaro, quindi vabbè. Ma la fisarmonica aveva un certo senso anche quella. Sì. Decisamente importante. Adesso, il nostro fisarmonicista ha parlato poco. Adesso vediamo il microfono. Vieni avanti al microfono. Dici qualcosa. Sai che qua bisogna parlare. È il più giocherellone. Quello che parlava prima non era il bassista, ero io. No, il discorso Flavio. Dell'inserimento della fisarmonica in questo pezzo molto interessante. In questo pezzo? No, parlo di questo pezzo. Ne ha inserito in qualche altro pezzo, ma questo pezzo, soprattutto questo pezzo, la funzione che ha la fisarmonica trainante assieme alla batteria, che è un pezzo reggae. Guarda, in realtà è una cosa molto, da parte mia, è molto più spontanea che studiata. Spontanea nel senso che l'ascolto determina, ovviamente, come tutti i musicisti, ci si ascolta e si cerca di trovare un qualcosa che può incastrarsi. Si incastri. Che il famoso interplay, no? Nel momento in cui uno interplay. Magari lancia uno stimolo, l'altro certo. lo raccoglie e lo riporta attraverso il suo strumento. Il bello poi è anche che spesso prendi una traccia che poi non resta però mai precisa. Soprattutto con questo gruppo, ma anche con altri, la traccia non è mai fissa. Gli arrangiamenti adesso, non per dire, dimmi. Gli arrangiamenti non sono studiati a tavolino, scritti e ripetuti. Sono questo è una cosa che non succede normalmente. Io ho una scrittura delle mie parti da gallina, scrivo delle cose che non riesce a leggere nessun altro, ma il senso è che gli arrangiamenti nascono suonando, in pratica. Ecco, questa, hai detto una cosa molto giusta e valida. Gli arrangiamenti nascono suonando, sì, provando e riprovando. Molti, molti nascono proprio così e si consolidano così. È bello. Paolo sì. è uno che suona da tantissimi anni questo tipo di musica, la suona da molti più anni di me, e per dire, lui ha, secondo me, rispetto, adesso non gliel'ho mai detto ma glielo dico, sì, ne approfitto pubblicamente, no, hai un tuo modo ormai, come dire, consolidato, un'impronta, è una tua impronta che riesci a mettere in qualsiasi pezzo fai. E non è una ripetizione, no, no, è un'impronta, ed è un'impronta che diventa una tua caratteristica. Tu nel brasiliano hai molta pratica, io per esempio nel brasiliano ne ho pochissima. Ma però ti ho cominciato bene a suonarla con loro. Ti sei adattato bene però, immediatamente, o no? Ma io sì, anche perché mi piace, non è che non l'ho frequentata perché non mi piace, non mi è capitato di frequentarla in passato, grazie a loro invece l'ho cominciato a frequentare, certo, anche la musica brasiliana. Così si capiscono certe basta cose. Basta così? Certe... Boh. No, però, no, volevo capire. Io volevo però aggiungere una cosa su questo, sul fatto, perché tu avevi fatto una domanda, perché la fisarmonica in questo pezzo? E Flavio non l'ha detto, però questo genere proprio prevede la fisarmonica, questo è un forró. Quindi in questo genere la fisarmonica è proprio uno strumento fondamentale. Sì, hai ragione, non l'ho detto. Ma è la ragione per cui mi avete chiesto di suonare con voi. Esatto, è la ragione iniziale. Esattamente, perché esattamente. Mi era stato richiesto di suonare dei forró. Si dice forró, con la ho. Che è un genere appunto del nord-est del Brasile. Del nord-est, del Brasile. Io casualmente molto avevo una popolare, fisarmonica. Tipo, e... Sì, è tipo liscio. Sì, mi parlava della Anna prima, sì, tipo liscio. Sì, si dice che fosse, no? L'altro è ballato molto. Sì. E... molto ballato. Che sta arrivando anche in Italia come ballo proprio. Bene. Sì, sì, ci sono. Scuole di ballo, scuole di ballo. E questo devo dire che Flavio invece rilancio anch'io un complimento, lo interpreta bene, perché lui ha proprio questa vena popolare che mi piace tantissimo, cioè questo... Ecco, giustamente la chiave di lettura si può anche dare, sì, del popolare, questo, esatto. Anche a me piace molto come suoni, Paolo. Anche Daniele mi piace come suona. Daniele chi? Daniele l'abbiamo sentito. Ah, Daniele, sì, sì. Ma Daniele è lontano, potrebbe andare. Perché poverino, è senza microfono. Ma anche Luca ci piace come suona. No, Luca, no, Luca se ci fosse quando, Luca, cioè, Luca è un po' meno, dice Daniele, però va bene, dai. No, dai, Luca, diciamolo, dai, Luca è un batterista normale, superfluo. Visto che il nostro bassista ha parlato poco, adesso può parlare anche lui. Vieni avanti. Sono d'accordo con il giudizio del maestro Costa sul nostro batterista. Sono da sempre l'oggetto di tutte le loro frustrazioni, no? Allora, dall'alto dei miei capelli bianchi, sopporto pazientemente questi ragazzacci. No, ma il basso, io avevo, cioè, nella recensione abbiamo fatto noi della redazione, ho sempre parlato del basso e il contrabbasso come lo strumento cardine della musica brasiliana. Se potrei fare. Cosa dici? Beh, cioè il bassista, il contrabbassista. Sono abbastanza d'accordo. Diciamo che no. Dimmi. Sì, diciamo che in generale gli strumenti a percussione sono la vera natura della musica brasiliana, insomma, per quello che non mi sopporta. Sì. Certo. Cioè il ritmo in tutti i sensi. Diciamo che storicamente il Brasile ha prodotto molti bassisti eccellenti, e tutt'oggi il livello generale dei musicisti è molto alto. Brasiliani è molto molto alto. Noi abbiamo avuto esperienze, diciamo, abbiamo lavorato costantemente per anni in una churrascaria dove avevamo possibilità di suonare, esibirci costantemente, e più di qualche volta sono capitati brasiliani che neanche musicisti, diciamo, però insomma capitava prendere uno strumento a percussione e comunque lo suonassero, andavano via, diciamo, senza nessun problema, senza grosse difficoltà, insomma, e quindi è già un livello musicale molto alto. E dopodiché, certo, noi abbiamo anche un fisarmonicista che ha dato un'impronta molto forte a questo disco, cioè un disco che parte da un progetto di musica brasiliana e poi si sviluppa in altri Invece in altri campi, soprattutto è molto vicino anche, diciamo, alla musica di Paolo Conte, all'idea perché diciamo che tra le collaborazioni Tra le collaborazioni del maestro Costa c'è anche quella con Paolo Conte. Ah, ho capito. Era qui che voleva. È vero, è vero, è vero. No, è vero. Però c'è, cioè, questo aneddoto. Non si può, non si può usare la radio per dire le cose. Le prove sono più o meno così. Cioè, si suona un po', ma in realtà è tutto un prendersi in giro. Scusate, non si può usare un mezzo pubblico per raccontare robe private. Dai, cioè, cosa vuol dire? Tu sei un personaggio pubblico. I tuoi trascorsi, praticamente. Ti puoi esimere. Sentite, vi faccio una proposta. Siete liberi questa sera? Vi fermate un po' di più da noi? Cosa propone? Propongo. No, c'è un motivo. C'è una grigliata. Maurizio, hai già capito? No, c'è un motivo molto semplice. Il nostro collega non viene stasera. Esatto, allora possiamo sforare dalle 10:30. Possiamo fare ancora un po' di più. Se voi gradite di farlo. Mi fa piacere. Ve lo dico in diretta, così non ci sono trucchi, non ci sono inganni. Ci state a stare qui un'altra mezz'oretta? Live un po' più. Un po' di più. Anche di più, se volete. Un po' più allargato. Quindi possiamo... Noi abbiamo Daniele. Daniele ha un appuntamento, mi sa. Non so chi sia, con chi sia gli appuntamenti a quest'ora, però adesso vediamo. Agostino, visto che ti ha scritto Federica, rispondile e dille che arrivo più tardi. Ma scusa Paolo, volevo dirti, ma salutala. Beh, è chiaro, ma insomma è chiaro, non l'hai fatto. Come? L'hai perché fatto? Per forza, perché voi parlavate mentre volevo farlo. Allora, ciao, intanto Federica. Intanto questo, e poi scusatemi se prendo il microfono, ma è stato detto che io ho suonato con Paolo Conte e tutti che ridevano come... Allora, intanto volevo chiarire questa cosa del perché si rideva dicendo, esatto, che io ho suonato con Paolo Conte. Ma è vero che è vero. È vero. E allora però dimmi, dimmi al microfono però. No niente, no. Perché volevo chiedervi perché ridevate così tanto. Perché la gente a casa, è questo che si chiede, non che, ma ha suonato con Paolo, no, si chiede, ma perché ridevano? E adesso risponde Daniele. Approfondiremo questi dettagli nella mezz'ora in più che abbiamo a disposizione. In cui tu non ci sarai. Abbiamo Daniele, risposta, Daniele dovrà andare via. Mettiamo un pezzo da disco. Sì, dai. C'è quella canzone che si chiama Dillo tu, che non vorrei. Marola? Sì, esatto. Che è un pezzo classico. No? Sì, è un pezzo classico fatto, scritto da voi, chiaramente. Un pezzo classico nel mio brasiliano, nel modo classico di suonare il Brasile. Questo volevo intendere. Sì. Adesso lo sentiamo, ok? Va bene? E poi ne parliamo. Va bene? Benissimo. Ok. Vou curto a marola, pês na prancha, o mar que me faz pecar, onda carambola. Tô no tubo e tombo torcido, entra espuma cintilante que resplende e cai. E foi, quase me apavora, se me respira, capo vibração, ondas de outrora. Deixo-me adejar livremente em cada esquina, escadas, rimas, peste a deslizar do pico. Vou me arrebentar, seguindo o fio, entre ritmos desiguais, com novo trio, labor cessante que mexe, empurra, remexe, eleva atrás, adrenalina com o coração. Harmonia da paz, atingo o som dos tambores primordiais. Conserto o tom com cuidado pra não perder sinais, mensagem de outro lugar. Ondas curtas celebrais que passam, redunda e corre pão, me deixando a sensação. c'è un mar che mi fa spiegare un bacio altro ora. Deixo-me a beijar livremente em cada esquina, cada cima, as presta a deslizar do pico. Vou me arrebentar, seguindo o fio, entre picos desiguais. Com um novo brilho, um alvoro cessante que mexe, é burra, mexe, é atrás. Adrenalina do coração, que pulsa, expande em cada frio. Allora, non ho ancora capito se vi fermate o non vi fermate qui ancora un po' in più. Sì, ben volentieri, solo che non avremo più il bassista. Vabbè, facciamo qualcosa. Deve andare via. Comunque... Che peccato! Ha chiamato Paolo Conte. No, c'è Paolo, c'è un messaggio per te. Dice di avvertirla quando finisci, che manda via quei tre amici che sono andati. Ah, okay. Va bene. Paolo, Federica, sei la più... Ah no, non si può dire, forse questa è una radio dove no. Vabbè, insomma, ecco, hai capito Paolo Avertina, okay, che, sì, sì, sì. Che calcola i tempi della sì, strada. Sì, ma la conosco, sì. La conosci. Lo faccio sempre. Allora, prima di continuare io devo, per forza di cose, insomma, consentitemi di rubarvi ancora qualche secondo, di ringraziare una persona che mi ha dato la possibilità di conoscervi, che è venuta a trovarci questa sera in studio, che è una vostra, come dire, fans, una ragazza insomma che vi adora, apprezza moltissimo quello che fate, ed è Chiara, che ce l'abbiamo qui. Chiara, se viene a salutarci. Vieni, vieni, vieni. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Grazie Ciao. Di cuore di averci regalato questa possibilità di avere i Bossamba qui. Chiara, vieni, vieni a salutarli, Non ti far problemi. No, no. Beh, no, ci siamo già salutati, dai, comunque... Sono felice di essere qua con voi. Ballo. Fantastico. Va bene, allora, 22:22, ci Ciao. Fermiamo ancora un po', però Ciao. Allora ne approfittiamo Maurizio per fare quella domanda che facciamo sempre. Ah sì, è vero, vero. Che poi così ne approfittiamo e lo facciamo subito. Anche, parliamo prima col bassista. Esatto, con Daniele. Assolutamente, è una domanda semplice però Secca. Pepata. Con chi devi uscire questa sera? No. No, no, no. Sto scherzando. Scusate, adesso non ci credo. È senza il microfono, adesso glielo passo. Vabbè. Comunque, io volevo dirvi che lui ha partecipato a un progetto dei Japan. Ah, interessante. Ecco. David Silvia, anche te. Adoro Mikan. Comunque, ah, bravissimo, ecco. Bravissimo. No, a parte gli scherzi, Daniele. Quando sei, la domanda è questa: se tu dovessi andare in una ipotetica isola deserta, che dischi ti porteresti? Te ne diamo tre. Siamo in tanti stasera. Tre. Siamo in tanti, esatto. Allora, certamente un CD di Charlie Hayden che si chiama Nocturne. Bene. Non del figlio. Non del figlio. No. Degli Spain, no. No. Assolutamente, del padre, assolutamente. E poi The Lamb Lies Down on Broadway dei Genesis. Adesso ci fermiamo un secondo. Come mai The Lamb Lies Down on Broadway? L'ultimo disco con Peter Gabriel, grande. Perché credo sia un... Cioè, insomma, oltre ad essere un concept per me è un capolavoro. Un disco che non smetto mai di ascoltare. Insomma, ormai ne sono entrato in contatto una quindicina d'anni fa, forse certo. Più, e continuo ad ascoltarlo ancora come, insomma, come gran parte della discografia di Genesis. Disco difficile, sì. Molto complesso. Molto complesso. Disco proprio di Peter Gabriel al 100%. Sì. E poi porterei Un CD che ho scoperto da molto poco, ma che mi sta entusiasmando sempre più, che è The Colors of Chloe di Eberhard Weber, che è un contrabbassista tedesco che regista per la ECM. È un disco che consiglio a tutti. Benissimo, benissimo, ok. Quindi spazi dai generis. Sì, molte cose diverse, sì. Ma hai citato Celine, quindi insomma, un grande, un grandissimo. Io ho citato suo figlio con gli Spain, ha fatto un disco bellissimo recentemente. Ha tirato fuori Genesis, Agostino, chiaramente. Una sonora fa sempre bene alla salute. Chi tocca adesso? C'è una regola che non abbiamo detto: non si può copiare, ecco. Assolutamente. Questa è una regola ferrea. Quindi i tre dischi che ha detto il nostro bassista sono i tre dischi suoi e basta. Ecco. Tocca a chi tocca, dai, chi in tocca? Linea come volete voi. Luca, vieni, te, sei là. Dai, vai, vai, vai. Tre per te. Il primo mi è venuto in mente subito senza neanche pensarci. Ed è un disco dei Police. Quale? Allora, è Regatta de Blanche. Perché nella mia storia così di percorso musicale mi folgorò. Steve Copeland, batterista che mi ha rivoluzionato il pensiero. Io all'epoca non ero ancora. Ero le prime armi, però mi ha dato veramente una svolta. Grazie, prego. Ti ha dato una svolta nel modo di suonare la batteria. Sì, sì, di come concepire la batteria, di come inserirla. E poi credo che sia stato, come dire, un precursore su come interpretare lo strumento. Abbiamo parlato del reggae rock, l'hanno inventato, del reggae, chiaramente. Del rock, del punk, insomma, era in grado di fare di tutto un po' di tutto, esattamente. Il secondo CD, il terzo già ce l'ho. Secondo? Che è un po', se vuoi. E il secondo mi mette un po' in crisi. Avevo pensato anch'io a una cosa di Charlie Haden, però adesso sembra che copi, però invece... però aspetta che vediamo, un po' nella mia discografia. Devi lasciare un attimo, ma non è facile, perché ce n'è tanta di roba che uno ascolta. Tre sono poche. E tre... Pochissimi, lo so. Se qualcun altro intanto pensa ai propri primi, io penso al mio secondo e poi lo dico. Il mio primo è White Album dei Beatles. Ecco, adesso ci fermiamo un secondo perché... Qualcuno dice The Sgt. Pepper è la Bibbia del rock. Qualcuno dice no, non è vero, la Bibbia del rock è White Album. Perché in White Album c'è tutto. C'è tutto il possibile e immaginabile. C'è Revolution numero 9 e ci sono Blackbird, ci sono cose meravigliose. Ci sono dei brani straordinari, però a me piace il disco. Cioè non è che... Chiaro che Sgt. Ma già Pepper... l'idea White Album, già l'idea del White Album, dell'album bianco, è già un'idea geniale, secondo me. Io ho passato una fase della mia vita ad ascoltare solo i Beatles, proprio dalla quarta elementare fino alla la prima, seconda superiore, insomma, quindi adesso ricordo gli anni della scuola, fino a 15 anni, 16 anni, ascoltavo solo i Beatles. E devo dire che poi a posteriori, cioè i dischi più belli sono appunto Sgt. Pepper, Abbey Road e White Album per me, e Revolver, però tra questi scelgo White Album. Perfetto. Perché c'è più musica, così c'è se sono nell'isola deserto più tempo. C'è di tutto, il doppio, il famoso mitico doppio. Sennò gli altri finiscono troppo presto. Esatto. Ok. No, però effettivamente sono dei brani straordinari. C'è un po' di tutto. Helter Skelter, insomma, per me. E quello è un brano che ha è il primo heavy metal della storia. È stato il primo che ha dato una via a certi gruppi, a tutti i gruppi di heavy metal, assolutamente. Dalla mente fuori di testa, nel senso positivo del termine, di John Lennon. L'ha inventato John Lennon, assolutamente un pezzo di John Lennon. No, ecco, questo è il mio primo, quindi poi Luca. No, facciamo così, se ce li hai tutti e tre li puoi dire tutti e tre. No, oddio, ne ho tantissimi, però... Ne hai tre, subito da dire. No, tre faccio fatica, però insomma diciamo che per affetto potrei portarmi, perché è stato il mio primo amore dal punto di vista chitarristico, Pat Metheny, anche se adesso non lo ascolto più tanto. Come mai non la senti più adesso, Pat Metheny? Perché sono passato ascolto, per te. No, sono passato come musicista. Per me, nel senso che mi piace sempre ascoltarlo, però poi ho scoperto altre cose. Chitarristi, qua parliamo di chitarrismo jazzistico, insomma, e non solo, perché lui fa world music. Però è il primo amore, cioè quello che mi ha proprio fatto pensare di di mettermi a suonare seriamente la chitarra. Ecco. Io perché ho guardato il schermo, pensavo che Agostino pescasse David Bowie e Pat Metheny assieme. David Bowie e Pat Metheny? Quel pezzo famoso che, ah, giusto, che avevano fatto This assieme. This is not America. Esatto, This is not America. Pensavo che Agostino pescasse quello, perché il grande successo di Pat Metheny in Forse Italia è stato quello, quello sì. È stato il lancio, poi ha venduto tantissimo, però è stato il lancio, è stato quello grazie a David Bowie, come sempre, sì, che sì. Lui ha salvato l'Urida, ha salvato hip hop, ha salvato tanta certo. gente. Ecco, vedi, per esempio un bel disco di David Bowie, come si chiama? Non lo ricordo più, quello dove c'è Starman. Zig Stardust. Zig Stardust. Bellissimo. Secondo me quello è un disco da portarsi. Quello è un grande, grande sì. David Bowie è un grande musicista perché ha sempre cambiato. Per cui ce ne farei, ha sempre cambiato. Farei, ci metterei una settimana a scegliere tre dischi. Perfetto. Ma i tempi sono questi, cioè, caro Paolo, quindi dobbiamo fare così. Diciamo che te li ho dati. Allora. Me li hai dati. Questo è un grande, è un grande pezzo, amica. Però a te, dimmi. Di Pat Metheny porterei Secret Story. Perfetto, va benissimo. Anna, tocca a te. Dopo passiamo un'altra volta a Luca. Allora, difficilissima. Non ci scordiamo questa. Di te, assolutamente. Difficilissima questa cosa, però come criterio scelgo quei dischi che non mi hanno mai annoiato. Perfetto, cioè, benissimo. Posso ancora ascoltarli. E Chet Baker, Live in Tokyo. Che è un... Vai molto alta, decisamente alta. Chet Baker, no, in senso positivo, parla di qualità, appunto di qualità, parlo di qualità. Dalla, quale di Dalla? Cara, ah, ok. E un disco di Chico Buarque che è Paratodos. Ecco. Agostino, cosa dici di Dalla Cara? È uno dei dischi che piace molto anche a me, comunque, perché forse è proprio il vero Lucio Dalla su Cara. Secondo me non c'è una canzone da scegliere poco brutta, cioè sono tutte stupende. Infatti, poi è un disco del 1980, gli anni più belli forse della musica italiana, e non solo. Quindi, insomma, questa. Te la ricordi? No. No, è Lucio Dalla. Tocca a te, vieni qua avanti. Cosa? Allora, distinto, il primo nome che mi è venuto in mente è Spike Jonze. Non so se ce l'avrai. No, Spike Jonze? Assolutamente no. Ok. Allora, come primo, proprio primo, perché... Perché ti è sempre piaciuto. Fa parte del tuo DNA musicale. Perché sono uno che ascolta, come lo spiritoso bassista che per fortuna fra poco se ne va ha detto, io sono uno che non ascolta molta musica, effettivamente. Ne ho ascoltata un po' da quando avevo 15 anni, i dischi di mia sorella e di mia mamma. Li rubavo e li ascoltavo. E in pratica mi porterei di sicuro Spike Jonze, Spiked, che è in sostanza una raccolta dove ci sono 50 brani. Era di tua mamma? No, ecco, questo non era di mia mamma, scoperto dopo. Mi porterei uno di quelli che ascoltavo, che però non so se si recupera ancora, perché... You always hurt. Potrebbe essere, adesso questa non la conosco in particolare, potrebbe essere di Spike Jonze. Comunque prendeva in giro un po' tutto. Esatto. A lui si sono ispirati un po' tutti quelli venuti dopo, a partire da Frank Zappa per primo, che ammetteva di adorare il modo di... Erano dei circensi in pratica della musica. Beh, Frank è sempre stato un circense, assolutamente. Spike Jonze lo faceva negli anni 50, le trasmissioni televisive circensi musicali. Bene. Detto ciò, l'altro disco è Il Barbiere di Siviglia con Tito Gobbi e Maria Callas. Perché? Perché io mi ricordo questo ricordo che lo mettevo il disco sullo stereo e c'era il disco bauletto con tre o quattro dischi e il libretto completo dell'opera. Quindi mi schiaffavo su e cantavo. Avevo 12, 13, 14 anni, giuro, è vero. E stavo lì a cantarmi buone parti, sia dell'uomo che anche della Callas. Ah, sì, ma se mi toccano dove è il mio debole, era bellissimo da cantare. Vabbè. Poi si può portare una cassetta? Sì. Il CD non c'è di sicuro. Dimmi il titolo della cassetta. Il titolo della cassetta è quello improbabile. È una cassetta di Link Lerm Questo è perché è stata la mia prima esperienza musicale, perché voglio dire, me la voglio portare dietro se devo andare in un'isola deserta, che mi resti. Mm-hmm. Gruppo punk, avevo 20 anni, parliamo quindi di 30 e passa anni fa. Link Lerm, in tedesco, che vuol dire frastuono assordante. Perfetto, c'è tutto un nome, un programma. Esattamente. Fatta, non hai trovato dei Link Lerm? No, è un po' difficile. Voglio fare il senatore oppure no, no niente. Vabbè. È un po' difficile che... Vabbè, approfitto, scusate, dopo passo il microfono. Se per caso c'è Andrea Sarzo, Bob, El Pecoretta, sono passati tanti anni, ciao. Tocca a te Luca adesso. Sì. Allora, di sicuro mi riallaccio a quello che ha detto Flavio, che anche per me è una cosa che... Sono nato batteristicamente con i Led Zeppelin. Ah, wow. Quale di Led? Non so se poi ci sia l'album in realtà, però credo di aver visto almeno 10 volte il film The Sun Remains the Same. È l'ultimo, c'è l'album. L'ultimo nuovo, andrai a vederlo, visto che l'hanno programmato recentemente. Ma dai. Celebration Day, sì. L'hanno programmato in qualche cinema. Per non so cui John quando. Bonham e poi no, tutti... No, non c'è più... Lo so, no, io mi riferisco ah, cioè, a... Sì, sì, sì, ok, ok. A quando l'ascoltavo e cosa cercavo di... Cioè adesso c'è il figlio, ma è abbastanza bravo. Sì, mamma mia, assolutamente. È molto bravo. E l'altro, il terzo, è Michael Jackson, perché ho sempre avuto una passione smodata per questo autore. Anche Agostino, Michael Jackson. E grazie. Prego. E se si potesse prenderei sia Thriller che Bad. Più Thriller che Bad. Dice più Thriller che Bad. Sì, insomma, comunque le produzioni con Quincy Jones. Ah, beh, chiaramente produzioni sono quelle che insomma a me poi. Adesso l'hanno ristampato il Bad, hai visto? Recentemente è ritornato in classifica e adesso è ritornato giù dalla classifica. Però quando l'hanno ristampato, il momento della prima settimana è andato subito in testa alle classifiche italiane, anche in qualche altra classifica, specialmente in quelle italiane. E Bad è un grande disco. Thriller è il migliore, secondo me. Quincy Jones ha fatto il massimo. Anche quello precedente a Thriller, cioè gli anni del 75. Anche quello precedente a Thriller, sì. Molto bello. Thriller ha fatto 110 milioni di copie, ragazzi, è mica uno. Il disco più venduto. Sì. Poi l'hanno rifatto, ristampato. Sì, ma sì, è come The Dark Side of the Moon. Però Dark Side of the Moon, dobbiamo sottolineare che viene ristampato sempre e sempre va in classifica. Thriller no, è andato in classifica una volta, è ritornato in classifica per la ristampa, eccetera. Da Dark Side sempre, è sempre in classifica. In America è ancora nel Billboard dei primi 200. Quindi quanti anni sono passati? Da 72, ragazzi, potete... Una cosa meravigliosa. 40. Ok, ci siamo. Adesso abbiamo finito le... No, tocca a te. No, no, io l'ho già detto. I vostri. Le nostre, ma noi non... Carioca sta casca, come DJ non possiamo... non possiamo dire. Non le possiamo dire le nostre, sono segreto. No, dai, se tu partissi stasera per un'isola deserta, che disco ti porteresti? Te lo dico subito, un disco di Cat Stevens. Ma no! Hai sbagliato risposta! Nonostante tutto quello. Cat Stevens, vabbè. Sempre con la Cinit. No, cosa porterebbe? Cat Stevens, adesso porterebbe? Adesso non si chiama neppure più Cat Stevens. Cosa porterebbe con sé se partisse secondo oggi? Secondo me porterebbe con sé certi dischi jazzistici, secondo no. me. No, dimmi cosa. Il disco dei Bossamba. Ah, è vero, hai ragione, il disco dei Bossamba, hai ragione. Vabbè. Io credo che Daniele voglia affermarsi ancora, vero Daniele? Che vuoi stare qui? Dipende da l'ultimo brano almeno. No, ha un appuntamento, non può proprio più rimanere, no, è impossibile. No, no, no, non può. Ok, resta. Poveretto. Beh, al limite può fare un pezzo solamente e poi se ne va, chiaramente, se vuole, sempre se vuole. Allora, sì, può anche andarsene subito senza fare il pezzo. Io direi che facciamo sentire un pezzo breve del disco e intanto decidiamo cosa fare. Abbiamo Valeu, va bene. Valeu. Okay. Valeu. Dal vivo? Sì. Sì, dal vivo. Dal vivo, sempre vero. Dal vivo. Questo è un pezzo scritto da Anna, vero? Sì. Allora, esattamente. Ok. Radio Veneto è come non l'hai mai sentito. Gastou a beia. que vê o eterno e o universo num olhar, talvez encontre alguém que enxergue além da dor, disposto a acreditar no seu valor. Pode ficar de bem com a vida se atentar, que o tempo para de cadência e abre espaço sem dimensão, onde aprendi que valeu por tudo que me deu e não me deu, pro senso de amizade que nasceu, de paz, de sonho e de esperança, sem cobrar a luz profunda do silêncio que conduz a explorar o imenso que seduz a mente e o coração pras retas se juntarem. Valeu por tudo que me deu e não me deu, pro senso de amizade que nasceu, de paz, de sonho e de esperança, sem cobrar a luz profunda do silêncio que conduz a explorar o imenso que seduz a mente e o coração pras retas se sempre emozione allo stato puro con la voce di Anna, i Bossamba qui a Brugio di Veneto con Agostino Spolaore, con Maurizio Calzavara e con appunto Anna Contin alla voce, Flavio Costa alla fisarmonica al piano, che non c'è il piano stasera, ma mi dà solamente la fisarmonica, c'è Paolo Valentino in chitarra e il cavachigno, che adesso chiederò cosa è perché non lo conosco questo strumento. Adesso lo tira, ecco, ce l'ha sotto il tavolo. Ecco, Daniele Vianello al basso, vedere. Contrabbasso, che non c'è ovviamente il contrabbasso, ma c'è, poi c'è Luca Palmarini alla batteria. Ecco. Questo è il, lo staff, il cast, come si può dire, il gruppo, ecco, dei Bossamba. Il quintetto, da il quintetto, dire. Via. Adesso ce lo fai sentire un momento, ecco, come suona, vedete, come suona, vai, suona così. E poi adesso sono un po' scomodo, però insomma, novidaggi. Ah, potremmo fare un pezzo di novidaggi. Ok, fai, fai pure, vai, vai, fai pure. Ai, veio da praia, na qualidade de sereia, metade um busto de uma deusa maia, metade um grande rabo de baleia. E a novidade era o máximo do paradoxo estendido na areia. Alguns a desejar seus beijos de deusa, outros a desejar o seu rabo pra ceia. Oh, mundo tão desigual. Tudo é tão desigual. Uou, uou, uou, uou, uou, uou. Ou de um lado esse carnaval, do outro a fome total. Uou, uou, uou, uou. Chudu, chudu, chudu, chudu, chudu, du, du, du, du, du, du, du, du, du. Questa non era prevista. No, non era prevista, però fa parte dello spirito di Paolino e Cavacchino. Del nostro programma e dello spirito della band, dei Bossamba. Possiamo chiamarvi band, sì, possiamo assolutamente chiamarvi band. Quintetto. E questa era proprio una rivisitazione di un pezzo famoso, reggae. Sì, assolutamente reggae. Questo nasce reggae. Nasce reggae, assolutamente. E la batteria del nostro Duca, assolutamente era reggae. Il brano di Gilberto Gil, sempre. Il brano di Gilberto Gil, esattamente. Bello, molto divertente, ben fatto. Ben sì, costruito. È uno strumento simile a un ukulele. Un ukulele, esattamente. Solo che ha le corde in ferro rispetto all'ukulele che c'era di plastica. La cordatura è diversa, è come le corde, diciamo così, più sottili della chitarra, quindi le prime quattro, contandole dal basso. Forché la più sottile, cioè il micantino, che invece diventa un re in questo caso, quindi la cordatura è re sol si re. Benissimo. Ecco, si usa proprio per accompagnare spesso i samba, insomma, nella tradizione brasiliana, ma non solo, comunque. Bene, ottimo. Ci avete messo molto tempo a fare questo disco? Salutiamo il bassista, se n'è andato. No. No. No, adesso torna a salutare, dai. Sì. Ci abbiamo messo, beh, non so se sia moltissimo, perché comunque sento che anche chi fa dischi ci mette tanto tempo comunque, perché è un lavoro di per sé. È un lavoro, un lavoro. Se lo si vuole fatto. Fatto bene, si deve fare un lavoro. E noi ci abbiamo messo un anno e mezzo. Di più. Beh, un anno e mezzo di lavoro dalla partenza alla stampa, ma ci sono stati in mezzo dei periodi di attesa, diciamo, che non dipendevano neanche da noi, quindi insomma non è proprio che per un anno e mezzo, due anni, tutti certo, i giorni eravamo lì a lavorare. Alcuni mesi. Periodi concentrati, alternati a periodi. Comunque come disco di per sé, proprio per la costruzione di disco, almeno un anno sì. Sì. Ci vuole tutto il tempo. E quindi siete già al lavoro per il prossimo? No, perché adesso cerchiamo di andare in giro a suonare, certo, a promuoverlo. È appena uscito praticamente. Siamo lenti, siamo molto brasiliani in questo. Beh, dal Brasile all'Australia ci stanno ascoltando da Perth, vi portano i saluti, la salutiamo caramente. Una cantante che è venuta qui a trovarci, ha fatto il live anche lei, si chiama Lori Greco. Lei dice: mi sono svegliata con il caffè in mano, buongiorno, e quindi vi saluto. Caspita, good morning. Dall'Australia ci stanno ascoltando, da Perth per l'esattezza. Che bello. Mamma mia. Ciao Lori, un abbraccio, un bacione, all'anno prossimo, insomma, speriamo che ritorni qui in Italia a trovarci, insomma. Magari ti faremo conoscere anche loro, così suonerai un po' di samba e di bossa nova con loro, insomma. Allora, 22:48, Blu Radio Veneto, sempre con Agostino, con Maurizio, ma soprattutto con i Bossamba. Daniele ci sta salutando, allora deve proprio andare? Sì, deve proprio andare. Sì. parcheggio del tronchetto, riunione di lavoro, esatto, forse è già andato perché è un po' maleducato, sì, dobbiamo dirlo, cioè, non per dire, cioè, è così, lui sparisce, no, sì, a un certo punto oppure lo aspetti, deve arrivare, ecco, e non arriva. Anche nei concerti così, sì, sì, sì, sì, sì, sì. È sempre poi, l'ultimo, poi arriva e dice ho dimenticato a casa il basso. No, il basso no, le parti sì. Lascia stare, Ma il basso no, quello secondo me dorme insieme al suo basso. A proposito di concerti, qual è il prossimo vostro concerto che farete? Allora, il 15 dicembre siamo nel Cadore e adesso ci stiamo un po' muovendo perché appunto, come dicevo prima, siamo molto lenti nella nostra promozione, dobbiamo fare il sito appunto e sentire un po' di posti e quindi, ma li metteremo magari almeno sulla nostra pagina di Facebook. Quella lì è, si può dire insomma, comunque Anna, qual è la vostra pagina? No, più che altro ho un dubbio su come viene fuori, però Cariocas da Casca, Bossamba, credo. Tutte e due. Ecco, no, perché ho avuto un attimo di dubbio sul... Avete quello lì solo come contatto? Se qualcuno volesse chiamarvi, insomma, sentirvi... Vabbè, certamente il numero di telefono di Paolo. Sì, beh, lì... Abbiamo anche un'email. Un'email? Sì, no, se volete comunicare i vostri dati, se qualcuno volesse, se fosse interessato. Abbiamo i prezzi. Abbiamo un sito che esiste, anche sebbene sia... In costruzione però... Da 10 anni. Sì, più o meno. No, da 10 anni, no, dai, da un po' meno. E credo, se non ricordo male, c'è un link per l'email, che comunque è semplicissima, info@bossamba.it. Nessuno la guarda però. Quindi... Potrebbe essere strapiena di proposte, esatto. E noi neanche... Come nessuno la guarda? Io pensavo la guardassi tu. No. E si scoprì, ecco a cosa serviva. Perché ecco a cosa serve questa trasmissione. A questo serve. Sì, sì. A che qualcuno finalmente legga le email. No, che da 8 anni non vengono lette. La guardo. Ah, ecco. Sì. Una volta alla settimana. E poi ci lamentiamo che c'è poco da lavorare, poco da suonare. 8 anni per leggere un'email. Quindi ecco, insomma, c'è solamente Facebook. Insomma, Facebook è il nostro sito, e anche MySpace, anche giusto? Abbiamo anche MySpace, volendo, sì. Sì. E se qualcuno invece volesse acquistare il vostro disco, oltre ad essere nei concerti, ci scrive su Facebook e glielo mandiamo. Per ora, però appunto ci stiamo muovendo anche per venderlo online. E quindi tipo con i nostri tempi sarà sistemata un'estate. Sì. No, dai, ce la possiamo fare. Ce la potete fare. Va bene, io direi di mettersi un'altra canzone, sì, dal disco. Però Daniele ci saluta. Esatto, volevo farti salutare Daniele. Vi saluto, vi ringrazio, è stato molto divertente e piacevole. Alla prossima, ciao Daniele. Buona riunione. Ciao. Sentite, io ho pensato di rendere omaggio anche a Daniele, oltre ad Anna e a Paolo, con la canzone che loro hanno scritto in questo disco, che è una canzone che tra l'altro Maurizio ha scelto per essere programmata da noi nella nostra, appunto, programmazione. Gofado, sì. Esatto. Gofado, sì. Che vuol dire? Niente. Ah, niente. Perfetto. No, è proprio in brasiliano, gofado significa niente. Ah, perfetto, niente. No, scherzo. Però Paolo lo... Ma perché Paolo. Quando io e Daniele abbiamo scritto la musica, poi hanno aggiunto le parole. Quando l'abbiamo fatta, ci siamo resi conto che era un pezzo bello per noi, no? Certo. E quindi, siccome ha un ritmo che ricorda un fado portoghese... Sì. L'abbiamo intitolato all'inizio Gofado Bingo. Che era, ecco, quindi ho fatto bingo. Sì, esattamente. E poi l'abbiamo rimasto cambiato in Gofado. Si rimane un po' più tutto attaccato. Ecco, questa però è la vera spiegazione. Benissimo. E io ci aggiungo, anche se mi permettete, che avete fatto un video su questa canzone, sì, che gira su YouTube, lo potete tranquillamente trovare. Grazie, Anna, che me l'hai postato. Grazie a te. Volevo appunto dire che ce l'hanno fatto dei cari amici, Vincenzo Agosti, e che adesso anche loro stanno, lui e un suo collega, stanno facendo dei video e andando anche a concorsi, e quindi spero insomma che gli porti fortuna anche questo video che hanno fatto con noi. chissà che sia un motivo in più per far conoscere la vostra musica, insomma, che è stupenda. Ne approfitto anche per ringraziare Cinzia Ferranti, che è moglie di Vincenzo, che invece ha scritto le poesie che sono contenute nel disco. Ah sì, che dicevo, infatti le leggevo qualcuna prima nel libretto che avete. Tra l'altro è molto bella anche la confezione che avete fatto, insomma. Bella. Poi magari se vuoi, Anna, se ne vuoi leggere qualcuna, più ben volentieri. Sì, che c'è una specie di gioco all'interno, sì, che uno può fare anche per scegliere le canzoni e quindi trovare una propria playlist e così. Procurati due dadi o una moneta o dei fili d'erba e il tempo per giocare. Esatto. Giusto? Sì. Allora ci ascoltiamo questa canzone che si chiama, Anna? Gofado. Fumo denso, alleggio ancora attorno al bar il mio drink pieno a metà. Mando giù d'un sorso il gusto amaro che mi dà questa scialba idea di libertà. Schivo lo sguardo e mi tengo per me il verdetto dei fondi di un po' di caffè. E la gitana se la ride danza via. Godo punto, spendo e gioco a volontà. Ma lo so, ritornerò. Sì. Achei a olhar penoso, suspirar que me faz o pensar em ti. Eu não sei porque vou maltratar meu coração por você. Será um dia voltar. Sangue nas veias pulsar, todo o corpo arrebata em outra ilusão. Arde meu peito, eu não vou mais aguentar. Rasgo esse mago mergulhando nos lençóis. Cerco illuso di fermare verità. Ci siamo dimenticati prima di salutare anche Eric, che ci sta ascoltando sempre da Perth, dall'Australia, insomma, e ci fa sempre molto piacere sapere che abbiamo questi ascolti anche dall'altra parte del mondo, insomma. Quindi ciao Eric, un abbraccio anche a te e buon proseguo ascolto dei programmi di Blu Radio Veneto. Allora, parlando di questo pezzo, Agostino Goffado, c'è una presenza importante, fra tutte le altre presenze, c'è la presenza di Giorgio Gobbo alla voce. Giorgio Gobbo è il leader della piccola bottega Baltazar, ha vinto un sacco di volte qua da noi e ha presentato tutti i suoi dischi. Adesso parliamo con Anna e con gli altri ragazzi, il perché di tanti ospiti in questo disco. Perché una delle cose che ci caratterizza è proprio quella di voler condividere con gli amici che negli anni hanno suonato con noi anche al ristorante, ed è però sempre questa cosa viene da una tradizione brasiliana. Infatti, se uno guarda video su YouTube di grandi cantanti brasiliani, ma non solo, si vedono sempre duettare fra loro, perché si dice dar uma canja, cioè quando c'è un musicista in sala lo si invita a fare un brano, e quindi c'è sempre questa idea dell'ospitalità e di condividere assieme la musica che volevamo riportare anche noi. Perfetto. E di fatto questo è un pezzo molto bello, scritto da loro, quindi un pezzo originale, colorato, si posso dire così, con la voce di Giorgio. Piace moltissimo anche a me. Io, se posso esprimere un parere, credo sia uno dei più belli del disco. È brutto dirlo, ovviamente, però io, secondo me, per i miei gusti sto parlando, insomma, è uno dei pezzi più belli, forse. Beh, anche, bene o male che per noi, insomma. Sì, a parte la voce. Ciao Giorgio! No, è vero, perché dal vivo di solito la canta Flavio, questo. Poi abbiamo scelto di farla cantare a Giorgio per avere un ospite, insomma. Qui Flavio ce l'ha un po' lì. Per quello. No, ma no, sono contento. È chiaro che Flavio la canta un po' troppo alla Paolo Conte. È vero? Comunque questa la potete sentire spessissimo nelle nostre frequenze per un paio di mesi, credo, vero Maurizio? Sì, circa due mesi l'abbiamo scelta noi della redazione, io e Alberto Pisco, che è curatore di tutti i nostri live, e abbiamo deciso, secondo noi questo era un pezzo trascinante nel senso positivo, che trascinava l'ascolto, e allora abbiamo deciso di mettere questo qua per dare come pezzo rappresentativo del nostro disco. Certo, diciamo, anche perché c'è in italiano la hit. Una volta si chiama la hit, esatto. E anche che... bello perché c'è la parte in italiano e la parte in portoghese, quindi da questa racchiude in sé tutto il disco, un brano emblematico, è vero, esatto. Una curiosità da parte mia, vi chiedo, che rapporti avete durante i concerti con i vostri fans? Cioè, come siete? Caldi, calorosi o siete chiusi? I vostri fans sono timidi? Che ne so, insomma, come vi presentate, come vi postate? Insomma? Non abbiamo fans. Non avete fans? Voi avete mai visto qualche fans? Ma se posso dire, la cosa bella di questo gruppo è che abbiamo negli anni acquisito un repertorio che va dall'ascolto un po' più, se vuoi, raffinato, intimistico, ha invece un repertorio che possa essere anche scatenante nelle feste, dove, perché sai, musica brasiliana spesso la si associa al carnevale, la festa, si balla. Per cui, come dire, riusciamo ad avere un ventaglio di relazioni varie, insomma, con il pubblico, no? Per cui c'è quello quando abbiamo un repertorio più d'ascolto, che li senti che sono, come dire, rapiti, spero, dalla musica, oppure invece è più prevalente il ritmo e allora si entra in un contesto più, diciamo, di coinvolgimento ritmico, emotivo e di ballo, insomma, sostanzialmente, che è quello che evoca un po' di più l'immagine della musica brasiliana, dico. Certo. Sì, però tutto sommato io devo dire che c'è sempre un bel calore del pubblico, sì. Quando, pur essendo una musica che nessuno conosce, cioè sono pochi quelli che arrivano e conoscono i brani che suoniamo, eppure coinvolgono, e questo a me personalmente fa molto piacere, perché no, è un po' l'idea di base. Proprio ieri sera ho saputo questa cosa. Io e Anna ieri sera abbiamo suonato in duo, abbiamo fatto un piccolo concerto, insomma, un grande concerto, e poi ho saputo che c'è stata una persona che si è appassionata alla musica brasiliana ascoltando il nostro primo disco, non questo, quello precedente a questo, si chiama Esta Sao Primera, e questo mi ha fatto enormemente piacere, veramente. Non ve l'ho detto, ve lo dico qui in radio. Quindi vuol dire che qualcuno vi segue, insomma. Sì, sì, ma questo non ci conosceva. Ha avuto il disco da chi? Da un amico. Anzi, che l'ha ascoltato a casa sua, è rimasto colpito e se l'è fatto dare. Poi da lì si è fatto dare anche tutti gli altri dischi di musica brasiliana che aveva, perché gli è piaciuta la cosa. Anche a noi siete piaciuti questa sera, comunque. Grazie. Ragazzi, posso chiamarmi ragazzi, sì, insomma, quindi è stata ragazzacci. No, perché c'era il proprietario dove lavoravamo che ci chiamava così, allora affettuosamente. Ah, ecco. Io direi che ci appartiene di più. Ecco, giusto. Ci salutiamo, allora, cosa dite? Volete rimanere ancora un po'? Beh, penso che... se hai quattro brand va bene. Allora, avete già qualcosa pronto per salutarci? Avete trovato qualcosa senza Daniele, sì? Sì. E tanto il basso fa dun dun dun e basta, quindi insomma. Fa dun dun dun, lui con la batteria è uguale. No, vorremmo fare un brano di Chico Buarque di Olanda che si intitola Feijoada Completa, e che è un brano molto allegro e che noi abbiamo molto, in cui racconta come si fa una feijoada, che è il piatto più tipico brasiliano, più rappresentativo, diciamo, del Brasile. E la cosa bella è che al di là degli ingredienti, quello che non deve mancare è la semplicità, la voglia di stare insieme in allegria e l'amicizia, ecco. Certo. Allora, l'appuntamento termina qui con i Bossamba per questo live di questo giovedì. Maurizio, noi ci rivediamo la settimana prossima. Sì, rivedremo giovedì per il musical. Sì. E no, ci vediamo anche mercoledì. Esattamente, mercoledì per un gruppo di reggae. Anima Caribe è un gruppo di reggae. La prima volta che ospitiamo questa, per la prima volta abbiamo ospitato la musica brasiliana, per la prima volta proprio in senso particolare ospiteremo un gruppo di reggae. I reggae li abbiamo citato spesso e volentieri, ma proprio che suoni reggae è la prima volta in assoluto. Invece martedì con Flavio avremo una cantautrice trentina, si chiama Maria De Vigli, un po' alla PJ Harvey, un po' particolare, molto interessante, come tutte le nostre programmazioni, posso dire. Assolutamente. Assolutamente. Presuntuoso. Esatto. E questo sono proprio presuntuoso. Beh, vorrei ringraziarvi veramente, sia sì. Agostino che Maurizio, grazie per l'ospitalità e per grazie a te, il calore, veramente. Grazie. Grazie a te di aver accettato, grazie a Flavio Costa, la fisarmonica. Ciao ciao. Grazie a Paolo Valentini, a chitarra e il cavachigno. Grazie a voi, e questo brano lo suonerò con il cavachigno. Benissimo. Per chiudere. E grazie a Luca Palmarina, la batteria. Ciao. E Paolo, devo mandare un messaggio a... che stai arrivando. Oddio, sì. Ah, sì, no, pensavo fosse arrivato un altro messaggio. No. Sì, tra un po' arriverò, non so precisamente tra quanto. Ma insomma, stiamo chiudendo, ecco, va bene. Regolati. Va bene, grazie della simpatia e della disponibilità, ovviamente, ragazzi, siete stati veramente molto molto simpatici e molto molto bene in vostra compagnia siamo stati anche noi. E quindi ci salutiamo con questa ultima canzone. L'appuntamento, come dicevo prima, è a mercoledì prossimo per quanto mi riguarda, ma poi soprattutto giovedì della settimana prossima avremo l'ultimo appuntamento con il musical. Sarà la volta di Mamma Mia, la serata finale fuori concorso. Sì, e vi consiglio, se trovate ancora qualche biglietto, di assolutamente di prenotarlo, perché è una rassegna veramente molto molto bella. Noi di Blu Radio Veneto siamo fierissimi di essere media partner, io per primo, perché ovviamente sono in giuria, ma insomma è il musical che si stanno svolgendo, che si sono svolti fino adesso, sono stati veramente molto molto belli. Quindi l'appuntamento è giovedì prossimo, sempre alle 21, qui su Blu Radio Veneto. Buonanotte e buon proseguimento all'ascolto di programmi di Blu Radio Veneto con Agostino, con Maurizio, e ma soprattutto adesso con la musica dei Bossamba. Ciao ragazzi, prego. Mulher, você vai gostar. Tô levando uns amigos pra conversar. Eles vão com uma fome que nem me contem. Eles vão com uma sede de anteontem. Salta a cerveja estupidamente gelada pra um batalhão. E vamos botar água no feijão. Mulher, não vai se afobar. Não tem que pôr a mesa nem dar lugar. Põe os pratos no chão e o chão tá posto. E prepara a linguiça com tiragosto. Uca, açúcar, quimbuca, bijalo e limão. E vamos botar água no feijão. Mulher, você vai fritar um montão de torresmo pra acompanhar. Arroz branco, farofa e a malagueta. A laranja da Bahia ou da Seleta. Joga o paio, carne seca, tocinho no caldeirão. E vamos botar água no feijão. Mulher, faz um pão refogado pra engrossar. Aproveita a gordura da frigideira pra melhor temperar a couve mineira. Diz que tá dura, pendura, fatura no nosso irmão. E vamos botar água no feijão. E vamos botar água no feijão. E vamos botar água no feijão. Grazie.